bella sospira, sospiro anch'io, e mia quell'ira, quel pianto è mio, e non ha bene se la non quel che era